La marcia dei sollevamenti della terra nasce l'anno scorso. Sull'onda dei Soulèvement de la Terre, il movimento francese, c'è una serie di persone, collettivi, gruppi, si sono ispirati a quello che facevano in Francia e poi sono anche andati a conoscere i francesi, ma questa è un'altra storia, e hanno deciso di fare una marcia che collegasse tutti quei territori dell'Emilia, ma adesso non più solo dell'Emilia, dove ci sono delle opere dannose per l'ambiente, imposte dall'alto, che si vogliono combattere. È un modo di unire nei fatti, proprio camminando con un movimento, questi territori, le loro specificità, le loro contingenze in un movimento unico che le attraversa. Quindi parte dalle risaie di Ponticelli che sono minacciate dai continui progetti di nuovi hub logistici, ormai ne è rimasta praticamente solo una di risaie, quindi di esempi del vecchio lavoro agricolo che una volta era egemone in quell'area del territorio bolognese. Poi passerà per Bologna alcuni giorni, dove evidentemente la principale opera combattuta è il passante di mezzo, l'allargamento della tangenziale e dell'autostrada che ha in mente la giunta Lepore, continuando diciamo la politica di cementificazione che è un po' tipica di questa giunta e dell'amministrazione del Partito Democratico. Poi si salirà sull'Appennino attraversando una serie di territori appenninici per arrivare sul Corno alle Scale, dove sono previsti degli impianti di risalita in territori che a causa del cambiamento climatico non vedranno più la neve, quindi si continua a investire sul turismo invernale con impianti di risalita altamente distruttivi, senza che questo in realtà abbia anche in realtà nemmeno una soluzione economica per quei territori, che sono territori economicamente molto depressi, in cui non ci sono più tantissimi servizi, in cui non c'è più spazi di socialità, l'Appennino si sta spopolando e gli unici investimenti vanno in questa direzione qua. Quest'anno si svalicherà anche, si arriverà anche sull'Appennino Pistoiese, dove anche lì ci sono progetti di impianti invernali in mancanza di neve. Invece Ida, visto che ci avete detto che la marcia passa per Bologna, avete pensato delle iniziative, degli eventi nella nostra città? Se sì, quali sono? La marcia arriverà a Bologna nel tardo pomeriggio di sabato, partendo da quella che sarà la seconda tappa, cioè da San Marino di Bontivoglio. Rimarrà per 3 giorni a Bologna, mentre l'anno scorso eravamo insomma passate soltanto per una notte, perché quest'anno si è deciso, visto anche insomma tutto quello che sta succedendo in città rispetto alla mobilità e ai cambiamenti urbanistici, da un anno solo a questa parte, di dedicare un po' più di tempo e di attenzione e anche di dare maggiore possibilità alle persone della città di venire a tutti i diversi eventi che si sono pensati in questi giorni. Quindi la marcia arriverà sabato nel tardo pomeriggio a Bologna. Il luogo dove si terrà il campeggio è una sorpresa, quindi rimanete collegati ai nostri canali, si scoprirà tutto pian piano. Rimarrà lì 2 giorni, ci sarà la cena sabato sera, ci sarà musica Il giorno dopo invece abbiamo pensato che, visto che ancora purtroppo non tutte le persone a Bologna, cittadine e non, sanno che cosa succederà effettivamente con il passante, abbiamo organizzato una svolantinata nei luoghi più disparati della città. Il punto di partenza sarà sempre il campeggio, ma andremo in posti diversi che insomma verranno detti la domenica mattina, domenica 10, e durante tutta la giornata ci sarà il mercato di Campi Aperti, quindi un mercato contadino locale, qui i distributori avranno i banchetti, quindi ci sarà cibo in abbondanza. La sera alle 17 ci sarà un dibattito pubblico aperto sul tema dell'inganno verde, quindi il greenwashing a Bologna e la retorica del green per passare e promuovere opere che potrebbero, hanno un secondo fine, che comunque non è quello che ci viene raccontato. In serata più tardi ci sarà anche una proiezione di un film e sempre musica. Poi c'è un'ultima giornata, che è quella del lunedì, che partirà sempre dal punto del campeggio per spostarsi con tutta la marcia. Da lì continuerà con il trekking No Passante insieme a Wuming 2, che ci racconterà per il terzo episodio un po' la storia dell'evoluzione dei cantieri di questa opera in varie aree della città, e ci sposteremo quindi verso Borgo Panigale e azienda agricola di Arvaia, dove arriveremo sempre nel tardo pomeriggio e anche lì ci sarà un dibattito sul tema dei nuovi OGM. Dove possiamo trovare le informazioni, anche perché ci hai detto che comunque molte verranno comunicate magari il giorno stesso o comunque vicini all'evento, quindi dove possiamo informarci, attraverso quali canali? Abbiamo numerose possibilità, c'è il sito sollevamenti terra.noblogs.org oppure la mail sollevamenti@riseup.net oppure il canale Telegram t.me/sollevamenti o infine il numero di telefono a cui potete scrivere o potete chiamarlo, che è il 37037042 48.